A bordo campo di Dario Ricci. È iniziata la corsa di Roma verso le Olimpiadi del 2020, già da tempo qui a bordo campo, qui a Radio 24, ve la stiamo raccontando passo dopo passo, e le parole di Mario Pescante, vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale e presidente del comitato promotore della candidatura di Roma 2020 lo testimoniano. Ma se Roma 2020 sarà olimpica, sarà anche una Roma paralimpica, perché alle Olimpiadi vanno a braccetto i giochi paralimpici. E allora, da quel punto di vista, chissà che Roma dovremo aspettarci. Lo chiediamo al nostro ospite di oggi, che è il presidente del Comitato Paralimpico Italiano e vicepresidente del CONI, Luca Pancalli. Benvenuto, presidente, a bordo campo. Buongiorno a tutti voi. Presidente, allora, si parla tanto di Roma 2020, come è giusto che sia. In pochi, però, mi permetto di dirlo io, ma forse è un pensiero che condivide, finora hanno affrontato l'argomento della potenziale possibile Roma paralimpica. Da questo punto di vista, allora, ci aiuti a capire a che punto siamo, e c'è già, immagino, qualche discorso sul tavolo, spero. Ma assolutamente sì, se non altro, come noto, faccio parte dell'esecutivo di Roma 2020, per cui questo proprio a riconoscimento del fatto che c'è la piena consapevolezza da parte del comitato promotore sulla responsabilità anche ad organizzare i giochi paralimpici, che oramai vanno da diverso tempo, da Seul 1988, per accordo fra il CIO e l'organismo internazionale paralimpico, si devono tenere obbligatoriamente nella stessa città che ospita i giochi olimpici. Forse se ne ha poca contezza all'esterno, perché i media forse lo ricordano troppo poco, spesso, però obiettivamente all'interno dei membri che devono in qualche modo hanno l'onere, a partire dal presidente Pescante, con il quale già ho avuto diverse riunioni, c'è assolutamente contezza di questa responsabilità, anche perché è un evento, è vero, a seguire generalmente di 10-15 giorni, ma un evento straordinariamente importante per tutto il panorama sportivo internazionale. Ricordo solo che il comitato organizzatore di Londra 2012 è unico, è uno e uno solo, sia per i giochi olimpici che paralimpici, proprio perché oramai si ha assolutamente contezza del fatto che è un evento indissolubilmente collegato a quello olimpico. Un aspetto importante nelle sue parole è proprio quello del peso specifico che la Paralimpiade anche ha in chiave politica, in chiave di assegnazione dei giochi, no? Spesso riuscire a mettere sul tavolo un'organizzazione efficiente per la Paralimpiade è il miglior biglietto da visita anche nella corsa olimpica, vero? Ma assolutamente sì, e lo ha dimostrato anche l'assegnazione a Rio de Janeiro per il 2016, che ha vinto grazie anche a un serio programma presentato su tutta la parte paralimpica. E d'altronde, ai più attenti osservatori di ciò che avviene, non sarà sfuggito che già nella chiusura di Pechino 2008 il comitato organizzatore di Londra 2012 in ogni sua uscita non ha mai omesso di attenzionare con grande visibilità, peraltro, anche tutta la parte che il comitato ovviamente sta svolgendo sul programma paralimpico. Questo ci dà l'idea di quanto sia importante lavorare, quale comitato promotore di Roma 2020, anche sulla parte paralimpica, ma di questo, ripeto, ne ho già parlato spesso con il presidente Pescante, ma insomma non sono sicuro che non sfuggirà l'importanza di questo aspetto anche per quanto riguarda i lavori che stiamo facendo per Roma 2020. Davvero vicina la scadenza olimpica di Londra 2012, no? Ormai il countdown, il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente anche all'ombra del Big Ben. Ecco, dal punto di vista paralimpico, presidente Pancalli, che paralimpiade dobbiamo aspettarci? Io credo che sarà, noi ci siamo oramai abituati che paralimpiade dopo paralimpiade ogni evento che segue rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del movimento paralimpico internazionale. Si diceva che dopo Sydney sarebbe stata la paralimpiade più grande degli ultimi tempi. In realtà Pechino poi ha superato Sydney, e io sono convinto che Londra supererà Pechino per un semplice motivo. l'origine del movimento sportivo praticato dalle persone disabili, del movimento paralimpico, nasce proprio a Londra nel 48, per cui gli inglesi non si faranno sfuggire l'occasione per rimarcare questa sorta di paternità iniziale, tant'è che io già sto notando dalla rassegna stampa internazionale di quanto lo rievochino e ci tengono a sottolinearlo. Non ultimo un intervento del ministro inglese la scorsa settimana, un paio di settimane fa, nel quale, parlando del grande evento olimpico di Londra 2012, poi dedica la metà del proprio intervento alla paternità che poi la Gran Bretagna rivendica sulla parte paralimpica, e io credo, conoscendo il popolo anglosassone, che faranno di tutto per rimarcare questa loro originarietà di intervento, e per cui sarà una paralimpiade, io credo, straordinaria. Londra 2012 sarà anche l'Olimpiade o la Paralimpiade di, o entrambi, di Oscar Pistorius, no? Abbiamo seguito con attenzione il tentativo di questo grande campione velocista sudafricano paralimpico di qualificarsi per Pechino 2008 e di gareggiare con gli atleti normodotati. Dibattito infuocato allora, poi Pistorius ha avuto il via libera per il tentativo di qualificazione, lo mancò, cronometro alla mano, tema che è già pronto a rinfiammarsi nuovamente, presidente. Allora, che Pistorius in quale corsia sarà e che tipo di dibattito si aspetta su questo punto? Ma è chiaro che a Oscar va riconosciuto il merito di aver aperto un tavolo di discussione che, al di là di quello che poi è succeduto, no, all'epoca, tutte le polemiche che ci sono state, ha avuto il merito di attirare ancor più l'attenzione sul nostro movimento. È chiaro che sarà la Paralimpiade o l'Olimpiade che sia, non solo di Oscar, perché io credo che tutti i 4.800 atleti che parteciperanno a Londra rappresentano delle storie straordinarie dal punto di vista sportivo, perché ognuno dei 4.800 poco più rappresentano il successo non solo loro personale quale atleti, ma soprattutto di un movimento sportivo che ha saputo interpretare a livello proprio internazionale l'importanza dei valori comunicati dal mondo paralimpico. Io credo che oggi più che mai, e Vancouver ne è una grandissima testimonianza per quello che poi, anche grazie ai media, Rai, Sky soprattutto, hanno saputo fare, di quanto veramente lo sport sia uno straordinario strumento di comunicazione da questo punto di vista, e non solo, quanto lo sport sia molto più avanti rispetto alla società civile per quello non soltanto che riesce a comunicare, ma per i segnali positivi che riesce a dare proprio dal punto di vista della come dire, capacità di essere comunicatore di valori, ma anche riabilitatore della società, perché si mostra la disabilità nel momento in cui è protagonista della propria esistenza e lancia messaggi positivi in un mondo dove generalmente la disabilità viene vista in negativo. Quindi, insomma, possiamo aspettarci una sfida Pistorius Bolt? Francamente, dal punto di vista tecnico, mi ritengo di poterlo escludere per i valori in campo dal punto di vista squisitamente tecnico, però già il fatto che, non so se Pistorius se ce la farà mai, però non so se nessun atleta riuscirà a qualificarsi per un evento olimpico, credo di poterlo oggi sulla base dei risultati quasi escluderlo, però già il fatto che si comunichi che c'è qualcuno che ci prova, secondo me è importante. Diciamo che saranno una sfida anche quella paralimpica sui 100 metri piani, che comunque saprà appassionare gli appassionati di sport, perché sarà straordinariamente competitiva e con un livello tecnico straordinario, se consideriamo che quello che viene fatto da atleti ai quali mancano o entrambi gli arti o un arto. Insomma, da questo punto di vista io credo che una valutazione, un avvicinamento, un'osservazione solo esclusivamente tecnica meriti l'attenzione che meritano questi grandi atleti. Ci avviciniamo a Londra 2012 però con i conti del Comitato Paralimpico Italiano ancora balbettanti, no? Siamo in attesa di un via libera da parte del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dello Stato. Da questo punto di vista, che garanzia ha ricevuto? Come state lavorando? Ma allora, da questo punto di vista, io non posso non segnalare la mia moderata, che sta diventando sempre meno moderata e sempre più alta, preoccupazione come livello di guardia. Devo dire che io ho totale fiducia, perché sto seguendo ora dopo ora ovviamente l'iter del rifinanziamento del Comitato Paralimpico, con il sottosegretario Casero all'economia e con il sottosegretario Crimi allo sport, dai quali ho ricevuto le più ampie rassicurazioni in merito. Certo è che oggi, alla data di oggi, siamo in difficoltà, perché abbiamo un bilancio preventivo che abbiamo sottoposto per l'approvazione al nostro organo vigilante, che è l'Ufficio Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, che non è approvato perché è un bilancio virtuale, perché ricomprende nel proprio seno quello che era il finanziamento dello Stato, che ad oggi non c'è, per cui non siamo assolutamente in grado di operare, il che ovviamente mi rammarica, perché ovviamente da questo punto di vista abbiamo dovuto bloccare tutta una serie di attività proprio per questo motivo. Questo mi consente di accendere i riflettori su un problema imminente, che è quello del finanziamento di quest'anno, ma su un problema anche futuro, perché noi per il 2012, che è l'anno paralimpico, non abbiamo alcuna posta prevedibile, per cui la posta del finanziamento è pari a zero, e questo ci mette nelle condizioni di non poter programmare. E questo è un problema che credo che abbia tutto lo sport italiano, cioè lo sport italiano deve essere messo in condizione di avere degli autonomi finanziamenti e dei flussi, come dire, dal punto di vista economico, che siano automatizzati per poter programmare. Lo sport non vive di anno in anno, ma vive di quadriennio in quadriennio, e spesso di più di un quadriennio, perché i risultati si programmano e i risultati sono il frutto di un lavoro che viene programmato. E qui noi come dire il CONI ha bisogno di poter avere certezze di finanziamento negli anni e di non dover vivere, diciamo, sulla quotidianità. Ecco, in soldoni, per quanto riguarda il Comitato Paralimpico, di che volumi, di che cifre stiamo parlando? Ma noi, il finanziamento negli ultimi anni è stato sempre di 6 milioni di euro da parte dello Stato, che insomma non credo che siano grandi cifre all'interno di un bilancio dello Stato, però questo è quello che oggi manca. A bordo campo. Ancora insieme a bordo campo con il presidente del Comitato Paralimpico Italiano e vicepresidente del CONI, Luca Pancalli. Finora, presidente, abbiamo parlato di paralimpiadi e di conti dello sport paralimpico italiano, ma dal punto di vista culturale abbiamo detto il grande impatto delle paralimpiadi di Torino 2006 sulla cultura dello sport italiano, e ogni giorno cerchiamo di fare questo paragone, no, tra sport paralimpico e olimpico. Ecco, dal punto di vista culturale, quali passi avanti concreti sono stati fatti in questo senso, presidente? Ma io credo che ci sia stato un effetto virtuoso assolutamente, ovviamente, positivo, proprio grazie a Torino, che ha innescato nel nostro paese un meccanismo di crescita e di attenzionamento da parte dei media che non si era mai avuto fino prima di allora. Ripeto, Vancouver ha insegnato di quanto ci sia oggi la consapevolezza da parte dei media dell'importanza di questo pezzo del mondo sportivo internazionale, che è un pezzo che si è conquistato grande dignità con i valori tecnici in campo. So per certo che per Londra, peraltro, l'impegno dei media sarà ancora più pregnante, ancora più importante. Questo ovviamente mi aiuta a pensare che si possa continuare a crescere, perché ovviamente da un'attenzione mediatica, soprattutto corretta, ma anche quantitativamente importante, deriva non soltanto la possibilità di far conoscere al paese quello che fanno questi straordinari atleti, ma ci consente, attraverso le loro gesta e i loro risultati, di poter contare su un'opera promozionale che, a mio modo di vedere, non è meno importante dei risultati che conquistiamo, nel senso che dietro ogni risultato di un nostro atleta ci sono tanti ragazzi e ragazze disabili nel nostro paese che devono essere avvicinati al mondo dello sport, e quale migliore spot dei loro colleghi che con la loro stessa disabilità sono riusciti, grazie allo sport, ad ottenere grandi risultati. Per cui ecco, io mi aspetto che tutto questo inneschi un meccanismo di promozione culturale, ma di promozione tout court, che possa aiutare il nostro movimento a crescere. D'altronde è un po' quello che avviene, diciamo, noi non sfuggiamo alle normali regole, quello che avviene nel mondo olimpico, cioè i grandi successi degli Neroffer o della Pellegrini o della Schiavone determinano poi, se noi andiamo a vedere i dati sul territorio, un avvicinamento maggiore dei bambini al tennis, allo sci piuttosto che al nuoto. Ecco, lo stesso avviene nel mondo paralimpico, per cui più noi riusciamo a lavorare in termini di risultati e di visibilità, più avremo garantito lo svolgimento anche di un ruolo di responsabilità del mondo dello sport in un'ottica promozionale. Luca Pancalli è stato anche commissario straordinario della Federcalcio dopo il terremoto di Calciopoli e soprattutto in occasione anche di quel 2 febbraio 2007, il derby siciliano Catania-Palermo, che vide gli incidenti che tutti ricordiamo e la morte dell'ispettore Raciti. Presidente, a vedere le scene di Genova dell'ottobre scorso con Ivan Bogdanovic, l'ultra serbo diventato famigerato per quegli scontri, ha ripensato a quella sera a Catania? E ma cosa io ha pensato? Sì, mi ricordo che in occasione della partita a Genova io ero di fronte alla televisione e devo dire che un po' di preoccupazione, da più che da uomo di sport e da dirigente dello sport italiano, da cittadino, ho avuto timore che si potesse, come dire, verificare qualcosa di brutto ancora una volta. Già era brutto quello che vedevamo in televisione, ma qualcosa di ancora più brutto. Però devo dire che là sono state particolarmente bravi le forze dell'ordine nel saper gestire quella situazione. Sai, a volte guardandole dall'esterno è facile dare giudizi su quello che si sarebbe o non sarebbe dovuto fare, però il fatto che tutto poi sia rimasto contenuto, sia pur nella gravità di un messaggio che noi abbiamo mandato ai nostri figli, perché io stavo vedendo la partita con mio figlio di 11 anni, le forze dell'ordine sono state straordinarie nell'aver saputo gestire quella situazione che veramente avrebbe potuto, considerata la bestialità di chi, dei protagonisti di quella situazione, avrebbe veramente potuto sfociare in ben altri danni. Oggi quando sente parlare del processo di Calciopoli cosa prova, Presidente, visto che lei fu chiamato a gestire proprio il difficilissimo dopo Calciopoli? Cioè, è una pagina ancora attuale nel calcio italiano? No, pagina attuale assolutamente no, è attuale la pagina, diciamo, nella dimensione della giustizia, questo sì, ma credo che sia ben lontana dal calcio attuale. Ovviamente non provo sentimenti particolari se non la consapevolezza che quella è stata una pagina particolarmente buia del calcio italiano, ma che si è superata. Ovviamente gli elementi di difficoltà e di ostacoli in una dimensione talmente complessa come quella calcistica, non solo in Italia ma anche all'estero, ovviamente le difficoltà ci sono, gli ostacoli ce ne saranno sempre, anche perché è una dimensione che è particolarmente, voi lo sapete come giornalisti, sotto l'occhio dell'attenzione giornalistica, che spesso non aiuta, devo dire, da questo punto di vista. Però diciamo è una pagina, credo che si possa considerare lontana, anche se ovviamente il percorso di giustizia è ancora vivo e ancora attuale. Da vicepresidente del CONI, presidente Pancalli, le chiedo fuori dai denti, ma come vi era venuta in mente questa storia del concorso Miss Italia Sport, su cui poi si è fatta marcia indietro? Secondo me è stato un po' un autogol. Ma io devo dire che do atto e merito al presidente Petrucci di aver saputo considerare la situazione, non soltanto per ovviamente la situazione a sé stante, ma anche per gli effetti che aveva provocato questa cosa, e con grande lungimiranza e con grande, come dire, serietà essersi assunto la responsabilità di fare un passo indietro. D'altronde nella vita, ripeto, non è che gli errori sono ammissibili. Nel momento in cui ci si è reso conto che era una situazione che provocava un certo disagio, ma anche difficoltà dal punto di vista organizzativo per gli impegni degli atleti eccetera, ovviamente mi sembra assolutamente responsabile, essere stato responsabile da parte del presidente Petrucci aver fatto un passo indietro, indipendentemente poi dai giudizi personali che però rimangono nella sfera del personale sull'evento in se stesso. Presidente Pancalli, grazie di essere stato nostro ospite a bordo campo. La so impegnato adesso nella Federazione Danza Sportiva, qualcuno dice incarico minore, so che invece c'è parecchio da lavorare, vero? No, la Federazione Danza ovviamente c'è tanto da lavorare, perché poi ovviamente incarico minore, perché è ovviamente una dimensione che è poco conosciuta, ma vi posso assicurare che è uno straordinario movimento, non soltanto nei numeri, perché insomma contiamo circa 108.000 tesserati, ma è uno straordinario fenomeno. Sicuramente sociale, perché una scuola di ballo esiste in quasi tutte le città italiane, sicuramente economico per quello che smuove questo movimento, ma anche, e consentitemi di sottolineare l'aspetto sportivo, perché spesso non si riesce a far emergere l'aspetto sportivo perché si è presi dall'aspetto spettacolare, che indubbiamente è un grande spettacolo, ma vi assicuro che è un fenomeno sportivo che probabilmente non oggi ma nel futuro saprà regalare al paese sportivo Italia delle soddisfazioni, perché indubbiamente quando lo sport, che di per sé è spettacolo, riesce a far comunicare il suo essere spettacolo non dimenticando l'essenza sportiva, io credo che sia particolarmente importante. E allora buon lavoro a Luca Pancalli e grazie per essere stato nostro ospite a bordo campo. Grazie a voi. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, che trovate sempre sul nostro sito. L'appuntamento è per domenica prossima sempre alle 14.30 e il sabato mattina alle ore 6.30 in replica. Una buona giornata da Dario Ricci.